Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi raccontiamo una storia molto strana e molto scellerata, anche se è una storia che dovrebbe partire bene, perché vi parleremo del rampollo di una famiglia molto facoltosa, la famiglia Dupont. Bene, John Eleuthère Dupont è uno che è nato in questa famiglia il 22 novembre 1938 a Filadelfia. È lui il protagonista della nostra storia di oggi. Ma andiamo con ordine. 1922, il nonno materno di Dupont compra un palazzo di 40 stanze nel quale cresce il piccolo John. È una residenza bellissima, 200 acri di terreno a Newtown Square in Pennsylvania. Questo perché agli inizi del XIX secolo le famiglie dei genitori di questo nonno ebbero molta fortuna. Insomma, il bisnonno paterno ha creato quello che oggi è il terzo produttore chimico più grande del mondo, la Dupont. E anche il padre del piccolo John è un uomo d'affari, un banchiere, una figura di spicco nello sport legato alle corse dei cavalli. La mamma e il papà acquistano terreni, si dedicano alla loro passione, all'allevamento di puro sangue, insomma possono permetterselo. Nel 41, quando John ha 2 anni e mezzo, i due divorziano. La mamma mantiene la proprietà della Lisette Roll Farm e John cresce assieme alle due sorelle maggiori, al fratello più grande Henry Dupont, e quando il padre si risposerà arriverà anche un fratellastro, William Dupont III, dalle seconde nozze. Eppure lui cresce da solo perché i fratelli maggiori sono più grandi di lui, trascorre gran parte del suo tempo nella tenuta di famiglia in una sorta di dorato isolamento emotivo. E qui c'è la prima caduta verso il basso. È una caduta da cavallo. Cade malamente, sembra che abbia subito gravi lesioni ai testicoli. Si dice che entrambi i testicoli gli siano stati rimossi, segnandolo ovviamente per tutta la vita. E non si sa se è vero, ma è vero che sua madre non lo considera molto. La madre è una che alleva pony gallesi, che accumula 3.000 trofei tra gare e fiere. Lui ha una devozione enorme nei confronti di questa madre non ricambiata e lui soffre, ha una bassa stima di sé, cerca di emergere dove può, anche magari aiutandosi con i soldi che ha, però è timido, è chiuso, è balbuziente, è il tipico bersaglio di bulli. Lui studia, cambia un paio di università, poi si laurea in zoologia presso l'Università di Miami nel 65, prosegue con un dottorato in scienze naturali. Durante le sue ricerche John partecipa a diverse spedizioni scientifiche per studiare e identificare le specie di uccelli nelle Filippine e nel Sud Pacifico. Nel 57 fonda il Museo del Delaware di Storia Naturale, quello che poi dirigerà per alcuni anni. John Dupont era anche un collezionista. Era stato nelle Filippine, a Samoa, alle Fiji, in Australia, in molti altri posti, raccogliendo centinaia di migliaia di conchiglie e più di 4.000 esemplari di uccelli. Una volta mi portò a visitare la sua collezione al Delaware Museum of Natural History, fondato da lui stesso. Nel 1965, quando era morto suo padre, John aveva ereditato una fortuna. Con quei soldi aveva potuto realizzare il suo sogno: aprire un museo per mettere in mostra la sua collezione. Un altro tassello si compone, perché lui ovviamente fa tutte queste cose per cercare l'approvazione della sua famiglia, e questa costante ricerca di apprezzamento lo porterà lentamente alla follia e agli eventi che narreremo tra poco. Lui vive in una casa vicino alla villa padronale dove abita la madre, è solo, ha molti interessi, è un filantropo, un ornitologo, un filatelico. Nell'80 ha un'asta, paga $935.000 nell'80, uno dei francobolli più rari del mondo, datato 1856. E lui fin da ragazzino ha un sogno, vuole vincere una medaglia d'oro in uno sport. Ci prova prima con il nuoto, dove non ha abbastanza talento, poi con il pentathlon moderno, che era una disciplina in sport molto costosi, soprattutto allora, 5 prove, corsa, scherma, equitazione, nuoto e tiro a segno. Poi si fa costruire una piscina olimpionica in casa, un tirassegno, una pista per la corsa. Ma anche questo non basta, come si legge nel libro Foxcatter di Mark Schwartz. John Dupont non sarebbe mai diventato un campione olimpico. L'unica cosa che poteva fare era frequentare chi invece avrebbe potuto esserlo. Così, ispirandosi al nome delle scuderie di puro sangue del padre, John pensò a come convincere i migliori atleti a gareggiare per il suo team Foxcatcher e cominciò a reclutare nuotatori, triatleti e pentatleti, invitandoli ad allenarsi nella sua tenuta. Il falco e il gabbiano. E John adora la lotta, però è uno sport che sua madre considera di basso livello, gli viene vietato di praticarla a scuola. Quando diventa adulto prova invece a cercare un po' di rispetto in quel mondo, e come? E coi soldi, l'unica cosa che ha da offrire. E così nell'80 finanzia la palestra della Villanova University, sostiene un programma di lotta, vuole tutti i lottatori vicini a lui e non si perde nessun campionato. If I was Martin Knapps, every time Dave Schultz put that front headlock on, I'd pretend it was hitting me, you get out of it every time. Ma nella vita di Dupont sta per arrivare la grande svolta, una svolta, ahimè, terribile, lo vedremo dopo. Compaiono i fratelli Schultz, entrambi atleti di primo piano, campioni olimpici di lotta. E Mark e Dave, i due fratelli, sono molto legati, hanno trovato nella lotta il riscatto da un'infanzia difficile, segnata dal divorzio dei genitori, dal bullismo, dai sacrifici. Entrambi credono in questa disciplina e vi si dedicano anima e corpo. Sentiamo Dave durante un'intervista dopo la vittoria alle Olimpiadi dell'84. Vi dirò, sono di fede cristiana e mi sembra di fare più che semplicemente wrestling per la gente. Voglio assolutamente utilizzare le capacità che mi sono state date. Non mi interessa vincere o perdere. Voglio impegnarmi al massimo e fare tutto ciò che c'è da fare. Non significa essere stupidi, ma se posso colpire 100 volte e sconfiggere il mio avversario in 12, lo voglio fare. Avete sentito parlare di wrestling, ma questo semplicemente perché loro la lotta la chiamano wrestling. Stiamo parlando della lotta seria, non lo spettacolo serio ma per altri versi dei vari John Cena, Hulk Hogan prima, eccetera eccetera. Cioè, qui stiamo parlando di specialità olimpica. Siamo al campionato mondiale dell'86. Mark Schultz perde le semifinali, rientra depresso a Palo Alto e riceve una telefonata improvvisa che gli cambia la vita e le prospettive. Un possibile colpo d'ala, perché c'è un uomo, un eccentrico miliardario che lo vuole vicino. Dupont propone a Mark Schultz di fargli da assistente allenatore alla Villanova University, dove ha appena aperto un nuovo programma di lotta, intanto di proseguire i suoi allenamenti personali, come racconta un film ispirato alla loro storia, Foxcatcher, una storia americana. Hai idea del perché ti abbia chiesto di venire? No. No? No. Vedi, Mark, tu hai idea di chi sono io per caso? No. No, signore. Un ricco sconosciuto ti fa una telefonata. Io voglio che Mark Schultz venga qui a trovarmi. Bene, io sono un coach di lotta e ho per questo sport un profondo amore. E volevo parlare con te del tuo futuro, del tuo obiettivo. Dimmi qual è il tuo obiettivo, Mark. Voglio diventare il migliore. E così Mark Schultz parte, saluta il fratello a cui è molto legato, che ha ricevuto un incarico analogo come allenatore all'Università del Wisconsin, e lascia la sua casa, Mark, per Villanova, a nord-ovest di Filadelfia, Pennsylvania. È arrivato. Però all'università le cose non girano come dovrebbero, perché Dupont spesso è ubriaco, interferisce negli allenamenti che peraltro i lottatori devono dividere con gli atleti del basket. Arriva insomma il momento di trasferire tutto dentro la tenuta Dupont e di collaborare insieme a Foxcatcher, un impianto di wrestling di alta qualità per lottatori. Ecco cosa scriverà Mark Schultz nella sua autobiografia. John Dupont era l'uomo più ricco che avessi mai incontrato, e il più infelice. Nella vita ci sono cose che non si possono comprare, ma lui ci aveva provato lo stesso. Presto avrei capito che non era solo un uomo complicato e strano, ma anche un manipolatore come non ne avevo mai conosciuti prima. Il fatto di essere pieno di soldi gli permetteva di esercitare sulle persone un ascendente malsano. Dupont credeva che tutti avessero un prezzo e quando aveva a che fare con qualcuno cercava di scoprire quale fosse. E le cronache raccontano anche che all'età di 45 anni, nell'83, Dupont sposa la 29enne Gail Wenck, una terapista conosciuta da poco. Dopo soli 10 mesi però iniziano le pratiche di divorzio. Lei cita in giudizio il marito, sostenendo che le ha puntato la pistola addosso, che l'ha minacciata più volte, l'ha spinta in un camino. La polizia, che riceve delle somme da Dupont, che ricordiamolo, ricco e potente, finge di non sentire, quindi viene solo ratificato il divorzio nel 1987 e solo un anno dopo inizia uno dei momenti più duri per la fragile mente di John Dupont. Intanto nell'87 Mark Schultz con la maglietta del Foxcatcher Team partecipa ai mondiali di lotta libera, vince la medaglia d'oro, ma nonostante il risultato nei mesi seguenti perde motivazione dando un nuovo corso agli eventi, un bivio che si rivelerà terribile. Il falco e il gabbiano. John Dupont, miliardario, erede della mitica famiglia Dupont, filantropo, appassionato di wrestling, è uno che ha creato in pochi anni la sua squadra di lottatori, il Team Foxcatcher, sul quale esercita un controllo ferreo a suon di dollari. E poi c'è questo rapporto tra lui e Mark Schultz, campione olimpico, campione del mondo, un suo dipendente. E il rapporto è sempre più difficile perché John è un manipolatore, poi è eccentrico, beve, tira cocaina, prova a tornare sul tappeto, rientrando nello sport, sempre per l'ansia di essere accettato soprattutto dai genitori. Inizia a fare delle competizioni per ottenere dei riconoscimenti dall'anziana madre. Naturalmente fa fatica, lo racconta anche una scena del film Foxcatcher. Pensavo di metterlo nella bacheca Rosemont. Primo classificato? Sì. Hai finanziato il torneo, presumibilmente. Puoi metterlo nella sala dei trofei. Grazie, madre. Madre, io ora sto guidando uomini. Sono un allenatore per loro, un insegnante. E sto dando all'America una speranza. Che importanza ha? Sono lieta che tu abbia il tuo trofeo e può stare nella sala dei trofei, non nella bacheca Rosemont. La lotta è uno sport che non amo, come sai. È uno sport minore. E a me non piace vedere che ti sminuisci così. È dura sentirsi dire queste cose da uno come Dupont, però nel 1988 l'adorata madre, adorata e temuta, muore. Lei aveva 91 anni, lui 50, e John pochi giorni dopo la perdita si trasferisce nella casa padronale, inizia a fare cambiamenti nella tenuta, sposta i trofei della lotta in primo piano e sposta quelli di famiglia legati ai cavalli da un'altra parte, aumenta la fattoria, la Lisseter al Farm, ribattezza la scuderia in Foxcatcher Farm e con i soldi che ha convince altri atleti a vivere e allenarsi nella sua tenuta. E poi farà una donazione di 3 milioni di dollari all'organismo ufficiale della lotta, lo USA Wrestling, diventando uno dei maggiori sponsor. Si libera finalmente dall'ombra della madre, ha intorno grandi professionisti, diventa un lottatore nella categoria over 50. A 55 anni, dopo una brevissima esperienza che aveva avuto al liceo, comincia a gareggiare e arriverà a partecipare anche a alcuni campionati del mondo tra il 92 e il 95. La spirale verso il basso di Dupont comincia proprio nel 1988, dalla morte di sua madre. E quello è il momento in cui è iniziato il declino, non ho dubbi. Questo lo dirà Taras Wuchok, che è stato il suo avvocato e suo amico dal 74. Eh sì, perché il comportamento di John diventa sempre più paranoico, va in giro con armi cariche e poi magari durante un allenamento spara in alto senza motivo, poi spara su degli uccelli che crede facciano incantesimi su di lui. Insomma, comincia a dare grossi segni di squilibrio. Intanto le gare proseguono, gli atleti si allenano e lui si fa riprendere spesso dalle telecamere in tenuta ginnica con la sua maglietta, la scritta Foxcatcher. Fischer presenta i componenti della sua squadra, come possiamo sentire anche da un audio originale dell'88. Here at Foxcatcher we're lucky enough to have Mike DeCandlo, captain of the Marple Newtown High School wrestling team. Insomma, la Foxcatcher è una delle palestre più grandi d'America e ha alcuni dei migliori lottatori del paese. E intanto Mark Schultz, il primo lottatore, quello che per primo è arrivato nella tenuta, è sempre più privo di motivazione e inizia a fare uso di cocaina. Siamo stati i suoi nuovi trofei, scriverà nella sua autobiografia. Insomma, è segnato dal rapporto con Dupont. Finalmente lascia il team, sente di essere stato manipolato e comprato con i soldi. Ammette di avere deliberatamente perso con un avversario alle prove olimpiche per non dare soddisfazione a John, che ormai odiava e da cui voleva staccarsi. Nella sua mente le nostre vite esistevano solo per glorificarlo. E lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per ottenere ciò che voleva, e cioè il rispetto. Ma lui non se lo è guadagnato. Questo era il problema. Lui pensava di poterlo comprare. E quando vuoi comprarti il rispetto, è evidente che non lo ottieni. Mark Schultz lascia il Foxcatcher nell'88. John Dupont lavora per ottenere un altro Schultz, David, il fratello maggiore di Mark, che si porta dietro anche la moglie Nancy e i figli. Così, nell'89, Dave Schultz diventa l'allenatore, stipendio $70,000, una villa a due piani libera nella tenuta. Kevin Jackson, campione olimpico formatosi alla Foxcatcher dal 90 al 95, parlerà così di Dave. Se non ci fosse stato Dave a Foxcatcher, nessun altro atleta sarebbe andato là. Dave era una leggenda, uno dei migliori lottatori del mondo in quel momento. E così Dave Schultz, a 36 anni, vince per la terza volta il titolo nazionale, per la quinta volta la Coppa del Mondo. Insomma, è all'apice della sua carriera, felice e entusiasta. Però le cose a John Dupont, il suo amico e magnate, vanno in maniera diversa, perché lui è sempre più paranoico. E poi nella tenuta arriva un altro lottatore, il bulgaro Valentin Yordanov Dimitrov. Anche lui arriva con moglie e figli e sarà lui a diventare il preferito di John e sarà lui a organizzare competizioni per senior dove casualmente, probabilmente con delle mance, insomma comprando gli avversari, Dupont vince sempre più spesso. In una giornata fredda e grigia però la mente di John Dupont entra per sempre nel baratro. È il 26 gennaio del 96, il 36enne Dave Schultz, la medaglia d'oro di lotta libera alle Olimpiadi dell'84, è nel cortile della sua casa. John gli si avvicina a bordo della sua Lincoln, accanto a lui c'è il capo della sua sicurezza. Hey John, you have a problem with me? Ciao John, gli dice Dave Schultz facendo un passo verso John. Hai un problema con me? Gli urla Dupont e poi gli punta una pistola dal finestrino aperto. Gli spara a bruciapelo. Hey, no, stop John! Senza motivo, se non la vena di follia che ha pervaso tutta la sua vita. Pochi secondi dopo, Dave Schultz, il campione considerato il nome di punta della Foxcatcher Team, giace morto sulla neve nel cortile davanti a casa sua. La moglie Nancy ha visto tutto. Dopo l'omicidio, l'assassino si chiude nella grande casa padronale e per oltre 48 ore tiene l'America con il fiato sospeso perché si rifiuta di arrendersi. Dopo aver ammazzato Dave, John tornò a casa senza Goodale e si rifugiò nella camera blindata con pareti d'acciaio che sua madre aveva fatto costruire come rifugio antibomba. John usava quella stanza, alla quale si accedeva da una porta dotata di un meccanismo a combinazione simile a quello di una banca, come biblioteca, e spesso anche per andarci a dormire. Era lì che si ritirava con il suo spacciatore personale di cocaina e da lì usciva poco dopo con un alone bianco intorno al naso e comportandosi in modo strano. Tutti i canali televisivi americani seguono l'assedio della polizia nella tenuta Dupont. Gli agenti sanno che lui non solo è un esperto tiratore, ma ha un poligono di tiro in casa, un arsenale ben fornito. Però ricordiamoci, è un miliardario perché se ad essere assediato fosse stato, che ne so, un nero dei ghetti, probabilmente gli avrebbero sparato subito. E invece qui il trattamento è ben diverso. Intorno alla residenza ci sono 70 poliziotti, ma per negoziare la sua resa. I'm Andrea Zenga in Atlanta. Here are the top stories. SWAT teams still surround the DuPont mansion outside Philadelphia. John E. DuPont, an heir to the chemical company Riches, remains barricaded inside. Police suspect he shot and killed Olympic wrestler Dave Schultz, who lived on the 800-acre estate. E così si ricorre a uno stratagemma. Lui è nascosto nella villa, la polizia gli spegne il riscaldamento, si scende fino a meno 6 gradi, lui raggiunge l'area della caldaia e viene catturato, e al momento del suo arresto naturalmente indossa la maglietta del team Foxcatcher. Non è stato spinto ad uscire di casa, ci ha comunicato mediante i nostri negoziatori che aveva freddo e che sarebbe uscito per aggiustare il riscaldamento. A quel punto, quando era fuori di casa, sul lato est dell'edificio, è avvenuta la cattura. E il 25 febbraio 1997 John DuPont viene condannato per omicidio. Sebbene abbia naturalmente strapagato un pool di avvocati, non è passata la linea dell'infermità mentale. È stato dichiarato malato di mente, ma non infermo. Ma perché ha ucciso Dave? Ecco cosa risponde Nancy, la vedova. Personalmente non credo che nella mente di un pazzo ci sia una ragione precisa. Penso che John DuPont sia stato portato alla follia dall'abuso di cocaina, e cercare una motivazione dietro tutto questo è piuttosto difficile. Io penso fosse una paranoia dovuta all'abuso di cocaina. E John DuPont dal carcere continua a gestire le sue proprietà, ha venduto gran parte degli immobili e degli animali, ha ordinato di verniciare di nero tutti gli edifici della Foxcatcher Farm, e la sua parabola si conclude il 9 dicembre 2010. Muore nella sua cella 3 metri per 2 condivisa con un altro detenuto a 72 anni. Per sua volontà viene sepolto con il costume del Foxcatcher Team. L'80% dei suoi averi vanno alla famiglia di Valentin Yordanov, ricordate, il lottatore bulgaro. Una parte va a una fondazione per sostenere la fauna selvatica del Pacifico. Naturalmente ci sono grosse contestazioni dei parenti, ma non valgono a nulla. Quando ha scritto il testamento, per la legge americana, era perfettamente lucido. Se O.J. Simpson è stato l'imputato per omicidio più noto nel sistema giudiziario americano, John DuPont è stato sicuramente quello più ricco. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare il colpo d'ala, e ci sono storie di persone che hanno sbattuto le ali a vuoto, magari per essere accettati da una famiglia importante, per cercare dell'autostima che non sapevano dove trovare. È la vicenda di John DuPont, il miliardario che uccise forse per essere qualcuno. Noi raccontiamo sempre storie di chi risale, di chi tenta, di chi cade, di chi ricomincia. Ognuno di noi nella sua vita può dare quel colpo d'ala che lo può portare a volare in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete ilfalcoilgabbiano@radio24.it, oppure visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social o nei nostri social, Twitter, Facebook. Insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. The six play.